24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo come la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca. Oggi Lebettino di Firenze ha detto una frase: ci metto la faccia. Lui ci mette la faccia, ma gli italiani ci mettono il culo tutte le volte. Vabbè, questo è anche un po' il clima da campagna elettorale, Lebettino da Firenze e Matteo Renzi secondo Beppe Grillo, se non l'avete capito. Cari italiani, sono le 6:34 minuti, siamo alquanto disperati, almeno io, almeno Miriam Lucchetti, perché siamo arrivati stamattina e sono saltati tutti i computer, c'è un attacco, c'è un hackeraggio, ci sono i virus, io twitto dal telefonino, lei ha tagliato dei file non si sa come, io non so che cosa manderemo in onda. Ma va bene tutto così, va bene così. Radio 24 è aperta, è accesa. Mi sentite? Cari italiani, mi sentite? Siete a Canicattì, a Foggia, a Palermo, a Roma, a Napoli, a Bolzano, a Torino? Dove siete? A casa Saluzzi, mi sentono? Paola Saluzzi. Riceviamo, oh, riceviamo forte e chiaro. E per forza, sei i nostri eroi del mercoledì. E per forza, sei collegata al telefono. Magari ci sentiamo solo io, te e pochi altri. No, no, no, no, no, la radio va benissimo. Va benissimo, cari italiani. Allora, sì, come detto, c'è Paola Saluzzi, sapete che. Questo mercoledì alle 6:33 una nuova puntata di Evviva le Russe, con Alessandro Milan e Paola Saluzzi e qualche altro ospite di cui non ce ne frega assolutamente nulla. Paola, Paola, no. Ma chi è questo genio? Ma non lo so, non lo so. Ma come non ce ne frega nulla quindi di Luca Dini, per esempio, il direttore di Vanity Fair? Luca, Luca, buongiorno. Ero un ascoltatore. È un ascoltatore che attendeva, come dire, com'è una nuova puntata di sulle rosse. Luca, buongiorno. Dire che per essere con voi sono a Londra, quindi mi sono svegliato un'ora prima. No, oh, no, ma non me l'hai detto, se no ti avrei chiamato lo stesso. Ecco, però insomma, sono le 5:30. Luca, dimmi. Eroico. Direttore è eroico. Sono le 5:36, dice il Big Ben a Londra. Esatto. Va bene, va bene. Allora, questo è un momento. Allora, apre il Parlamento a Londra. Molto presto oggi. Un caffè si può avere? Il caffè volentieri a tutti quanti. Parlamento, triplo caffè per Luca Dini, non lo sapevo, giuro, è una giornata pazza, inizia un po' così, insomma, inizia un po' così, alle 5:30, eccolo qua, il nostro direttore di Vanity Fair collegato da Londra e Paola Saluzzi collegata da casa sua, sì. Assolutamente collegata da casa mia, ecco. Nell'orario, nel fuso orario reale del 24 mattina, aggiungiamo che class is not water per Luca Dini, perché veramente stiamo parlando di eccola lì, guarda che sfoggio, class is not water, che sfoggio, che sfoggio. La classe non è acqua, eccoci qua. Allora vabbè, a me la cosa che ha colpito di più prima di parlare della solita politica è questa, detto che poi vi devo dire in un'intervista che c'è a Repubblica, che però riguarda, ricordate, il caso degli embrioni scambiati, magari ne parliamo tra un attimo ancora. Ma sabato che succederà, Paola Saluzzi, sabato al Colosseo? Tu lo sai che succederà? Allora, al Colosseo? Sabato al Colosseo succede che io mi presento come uno dei possibili soggetti che potranno rimanere lì, insomma. Sì, stiamo sì. Parlando della notte dei musei. La notte, no, chiaro, la notte dei musei. Musei tutti aperti, perché, tutti aperti. Musei tutti aperti. Io sto pensando, sono sicura che il problema si risolverà. A tutta la gente che sarà in giro, anche sì, quella che arriva da fuori Roma soprattutto e non ha mai visto il Colosseo e se lo ritrova chiuso, perché sì, poi il Colosseo chiuso è un paradosso perché è tutto aperto, e c'è. C'è un modo di dire a Roma quando si lasciano le porte aperte, oh, è che stiamo al Colosseo, ecco. E quindi non è possibile. possibile. Cioè, tutti i musei saranno aperti, ma il Colosseo no. Non si sono trovati 5 volontari che aprono il Colosseo. Oh, cittadini di Roma, andate ad aprirlo voi, non lo so. Il concetto è dai, su, ma che figura facciamo di fronte al mondo? La notte dei musei aperti. Che farebbero a Londra, caro Luca Dini, no? L'hai sentita questa? È arrivata fino a Londra che il Colosseo rimarrà chiuso perché non ci sono 5 custodi. Che farebbero a Londra? Ne parlavano tutti. No, penso che li troverebbero. Li troverebbero anche a costo. Secondo me li troveranno anche in Italia. Anch'io voglio sperare che questa cosa non succeda. Non succede, però, ma sì, queste sono le questioni, immagino. Ma Paola, tu hai capito perché, non so, i sindacati, la questione è molto complicata, intricata e al tempo stesso, secondo me, di facilissima soluzione. Sì, è una questione di numeri obbligati, no? Quindi io non credo che non ci siano in tutta la città, e aggiungo anche fuori dalla città, 5 cristiani, che detto cristiani al Colosseo pare brutto, ma insomma 5 persone che non si mettono lì e non si mettono a fare i bravi guardiani del faro, del miglior faro che esista al mondo, facciamo un po' anche di, come dire, di sana pubblicità. Ah, sì, ma troviamo 5 cristiani, poi dopo facciamo uno spettacolo. I cristiani del Colosseo non erano volontari, effettivamente. Non erano volontari. Ecco, e questo è, insomma, su via, or bene o su, perché poi così si inanellano le brutte figure. Abbastanza, sì. Perché ci attendono tutti con questa notte dei musei. Ma poi ci stanno i centurioni là sotto, voi non avete idea quando si passa, e ci sono queste figure mitologiche vere, però, che stanno lì. Sì, ma secondo me si propongono 5 dei centurioni e non ne parliamo più. Insomma, che dobbiamo fare? Allora, vorrei capire se si parla di campagna elettorale lì, a Londra, delle europee. Ma gli interessa questi inglesi o fanno gli snob? Se gli interessa, parlano dei contenuti o invece fanno come in Italia, dove si urlano un po' di insulti addosso? No, parlano anche qui dell'euroscetticismo, diciamo, un po' tipo ve l'avevamo detto, loro sono sempre un po', però insomma non mi pare ci sia una preoccupazione clamorosa. No, ma effettivamente queste euro elezioni, poi in Italia si vota sempre, già tante volte in Italia. Cara Paola Saluzzi, ma secondo te gli italiani sono interessati da queste euro elezioni? Allora, alla tua domanda saggia, onestamente io non so dare una risposta altrettanto saggia. Mi piacerebbe pensare che questa volta fossero tutti molto interessati, perché stavolta forse si è capito, e lo stiamo capendo anche da quello che accade a Lampedusa o altrove in quelle aree, e lo stiamo capendo anche da quello che accade quando l'Europa decide qualcosa e poi tutto ricade su di noi, anche da un punto di vista economico. Siamo parte di un unico condominio. Mm. Se lo capiamo e mettiamo il naso fuori dal nostro appartamento per la prima volta e ci interessiamo al bene comune di ciò che accade nella scala A, anzi scala unica, forse è la volta che queste elezioni Ma il problema è che siccome una politica comune europea non c'è, è proprio il caso che hai citato, la questione degli immigrati, nella lampante dimostrazione. Forse la gente percepisce l'Europa così lontana, che dice ma sì, ma che faccio? Voto degli europarlamentari, li mando a Bruxelles, a Strasburgo, ma l'Europarlamento in fondo cosa decide? Gli italiani pensano che già il Parlamento nazionale sia un po' delegittimato, ci sono 900, 1000 deputati, ma in fondo in quanti decidono? Siamo arrivati a questo punto, però. Ma forse drammaticamente un po' è vero, cioè che non decidono granché. Anche lì in Europa decide la Commissione, in Italia decide il governo. Non lo so, Luca, tu che ne pensi? Al di là del... Ma io la cosa più sconfortante è che poi sempre in Italia le elezioni europee diventano soltanto una specie di referendum sul governo o cose del genere, cioè è sempre tutto vissuto per, per, per, per usare l'analogia di Paola, come una cosa del tuo appartamento, come se la Scala A non esistesse. Ma è un po' così, infatti. Tu hai sentito temi di dibattito, sì, si è parlato un po' di euro sì, euro no, ma adesso senti temi di quello che insulta quell'altro. Berlusconi dice andremo al governo e daremo i soldi alle casalinghe, le denti. Ma cosa c'entra? Cioè, l'Europarlamento, cioè, non è che si sta votando per il governo. Ognuno fa la propaganda elettorale sui futuri o futuribili programmi di governo, questo è Paola. Ma andiamo a discutere la materia euro. Certo, attenzione, appunto. Ridiscutere la materia euro significa, personalmente, sto parlando, rivedere tutto ciò che l'euro debba significare per tutti, non uscite ondivaghe per le quali io, come cittadina europea, io non credo a queste tesi, perché uscire significa, e torniamo alla metafora, sbattersi la porta alle spalle, non avere la chiave, non rientrare e non capire che tutto questo porterebbe dei danni disastrosi. Sì. Certamente è una gestione diversa, certamente, ma questo lo puoi fare solo se sei nel gruppo. Se continui a startene nel tuo piccolo o grande o medio appartamento chiuso, non ci capirai più nulla, non comprendi. No, questo non sì, questo sì. Gruppo, non farai parte del gioco. Sta di fatto che anche, per esempio, materia di campagna elettorale è diventata l'Expo. Allora, sentite, Grillo e poi Renzi, l'Expo. Grillo dice fermare tutto, c'è una rapina in corso. Noi non possiamo andare avanti col Corriere che fa paginate, bisogna riprendere i lavori. Che lavori prendi? C'è una rapina in corso. C'è una rapina in corso. Che lavori prendi? O entri gli arresti o finisce lì. Eccolo, Grillo dice quindi via tutto, mentre Renzi che ieri era a Milano per rilanciare l'Expo. Questa città oggi vive un passaggio che è un passaggio delicato, lo abbiamo detto, ma chiave e strategico per noi. Se vinciamo la sfida dell'Expo facciamo l'Italia, se ci tiriamo indietro nel momento clou siamo non l'Italietta, non siamo più coerenti con i nostri valori, con la nostra tradizione e anche con le nostre speranze. Allora, peggio dell'Italietta. Allora Luca, questa Expo, anche di questo se ne parla a Londra oppure non gliene frega niente a nessuno? E poi soprattutto fermarsi, farlo, siamo l'Italia, l'Italietta. Ma non se ne parla, però penso che l'idea di fermare tutto, di ritirarsi, sarebbe per qualunque paese civile normale totalmente inconcepibile, cioè non se ne parla nemmeno anche per questo, ma non esiste, cioè in qualsiasi posto normale succede una cosa come questa, e succedono anche altrove, perché bisogna dire la verità, i colpevoli vengono presi, tolti, pagano e si va avanti, anzi forse si va avanti con più foga, con più entusiasmo, perché proprio per far dimenticare quello che è successo. Sì, devo dire. Non si può fare campagna elettorale su tutto. Cioè, no, devo dire che effettivamente qua adesso non è questione di essere pro o contro dal punto di vista dei partiti, ma Paola, tu penseresti un anno a dire no, scusate, ci siamo sbagliati, l'Expo. Ma voi, visto che sto parlando a due splendidi papà, un figlio che non studia, lo fate bocciare? Dicendo, oppure... senti, sai che c'è di nuovo, ma fatti bocciare, tanto è tutto perso. O vi mettete al tavolo con lui a lavorare fino a sera tardi e a fare i compiti insieme, pur di portarlo in ogni caso alla promozione. Vabbè, poi si sa che Lucadini farebbe la seconda. Io sono un schiaffoni, no, scherzo. Basta, scherzo, Milano, scherzo, fai silenzio, scherzo. Conosco la tua famiglia, silenzio. Non mi costringere a raccontare che belle persone che siamo. No, infatti. Il concetto è un altro. Il concetto è finire i lavori e farli bene, per non lasciare delle cattedrali nel deserto e soprattutto per non lasciare al resto del mondo la sensazione orrida che il nostro paese sia un paese che molla la presa. La presa non la molliamo. Poi che le critiche possano essere mosse in tutti i sensi, ma noi la presa non la molliamo. L'orgoglio della generalessa Saluzzi! Eccolo qui, patriota, la generalessa, come la chiamo io. Ma non sono neanche andata a Pordenone. No, c'era l'Alpino, c'era l'Alpino. Allora andiamo a sentire il traffico, perché poi rientriamo. Guardate che torna la polemica, ricordate, delle coppie con lo scambio di embrioni. Parla Repubblica per la prima volta la coppia di genitori biologici, cioè quelli dal quale hanno preso gli embrioni fecondati, li hanno messi nel grembo di un'altra donna, e dicono... quei figli sono nostri, li rivogliamo indietro quando saranno nati, perché sono due gemelli. Davvero io mi arrovello, ma una soluzione a questa situazione è impossibile. 24 mattino. Berlusconi che ha predicato, ai cani? Forse sono più onesti i cani che tutti i suoi seguaci, perché almeno quelli sono innocui e vogliono bene ai padroni. I suoi seguaci sono soltanto interessati dai suoi soldi. Povero Berlusconi, quanta pena mi fa. Oh, con tutte le cazzate che dice Forchielli, mi stupisco che abbia un posto così di rilievo. Voi giornalisti continuate a parlare di tutto tranne di cosa significa andare a votare in Europa, cioè cosa fa un candidato, cosa fa l'altro, nessuno sa niente, gli italiani vanno a votare come se fossero le politiche italiane, non c'è un giornalista che parli di cosa significa l'Europa, di cosa significa andare a votare in Europa, non state facendo cultura su niente, siamo veramente un popolo di ignoranti, ciao, grazie. Io sono quella dei Mattarelli, che ce li ho ancora perché nessuno me li ha chiesti. Io sono vecchia, però sono appassionatissima del Bologna e siccome quella testa di coso di Baraldi ci ha mandati in B, io chiederei se ci uniamo tutti e gli chiediamo i danni al signor Baraldi. Mi faresti un appello? Guarda che se non me lo fai vengo lì con mi ho dei Mattarelli, vengo lì con quello che ho tenuto da dar via. Io volevo ringraziare Alessandro Milan e Mauro Meazza perché con i loro due numeri 16 e 55 ho vinto 470 euro. Grazie, ciao. Ma che? Oh! Ma abbiamo fatto vincere una. A parte che subito, vedete, io di fronte al Mattarello, per non rischiare. Forza Bologna, però, dai, effettivamente. Sì, certo. Bologna, certo. Lo squadrone che tremare il mondo fa. Lo so, però, cara signora De Mattarelli, in tre in Serie B devono andare anche ogni capito, anno, però, capito? Risorgerete! Risorgerete, cari amici del Bologna, risorgerete anche voi, a scapito di qualcun altro che andrà in Serie B, cioè l'anno prossimo, che dobbiamo fare? Non so, questa dei 16:55 dobbiamo approfondire, perché scusa, 4:50... Alessandro, cominciamo a dare altri due, forza. No, ma Alessandro, no, ma io non mi... dite due numeri no. E non ne parliamo. È vero, Luca, di un numero, dai, Luca, di un numero, su. 22. Tu, Paola? 21. Beh no, ma dai, vicini così, statisticamente. Sì, escono, vabbè, escono, escono 22 e 21. Siamo il mago Luca Di Nao. Terno secco, sì. con Alessandro. Ah, io dico anche il 73. Siamo del, ma 21, 22 e 73. Il mago Luca Di Nao e, e la maga Di Nao Donascimento e la maga sensitiva vi hanno dato i numeri, già me li sono scordati, ma c'è la registrazione. Allora, no, 21, 22 e 73, io non me li sono scordati. Non era 75, no, non lo so, ce lo siamo, ce lo sai, no, qua non leggo bene i tarocchi, devo rifarli. Va bene. Allora, come risolvereste questa situazione? Io ve l'ho già chiesto, Luca Dini, di questi che dicono i genitori li vogliamo indietro i figli. Ma guarda, che dire, ci vuole, nemmeno Salomone, qua è una cosa, è impossibile, cioè io spero solo che... spero solo che come a volte succede li vedano e cambino idea. E cambino idea. Perché secondo me secondo me capisco il loro dolore, ma è una al momento sono molto determinati. Volontariamente crudele. No, lo so. Come la giri, davvero una soluzione non c'è a questa vicenda. Sono tutti vittime, sono tutti C'è solo un buon senso, non detto così per dire, che dovrà scattare per forza nel momento in cui loro si renderanno conto, loro i quattro genitori si renderanno conto di essere diventati genitori quelli che sono poi quelli che hanno i figli, i propri figli, e vedono i propri figli altrove. Sì. capiscano che non si può fare niente. Lo so, non solo si può che fare niente. A dirle una consolazione non c'è, ma leggeremo in rassegna stampa tra poco l'intervista. Io voglio solo dire questo, che in copertina, ma sei andato a Londra perché c'era Angelina Jolie? No, Luca. No. Però in copertina c'è Angelina. Angelina in copertina fa più bella la mattina. Con tanto di intervistona ad Angelina Jolie. Vabbè, ma questo lo devo dire. Io però l'articolo che leggevo con massima attenzione, come sempre, è un altro ed è anche molto attuale, caro Luca, no? Perché c'è stata un'altra tragedia, purtroppo a Lampedusa, e voi avete fatto il percorso un po' di quella tragedia di 7 mesi fa, con 366 morti. Davvero terribile, cioè, cosa avete fatto? Che persone sono? Cosa avete raccontato di queste persone? Facciamo un viaggio rituoso, diciamo che partiamo. Questa prima puntata è la storia di tre superstiti: che cosa vivono, che cosa hanno vissuto, perché hanno rischiato quello che hanno rischiato, e poi andremo indietro, Libia, Eritrea. Raccontare questi percorsi ritroso di queste persone che spesso fuggono. Sì, perché quando poi ne parliamo bisogna sapere che hanno un nome e un cognome, intanto. Che hanno un nome, un cognome e un volto, intanto, che voi riprendete. Cara Paola, alle 15 che fai tu su Sky? Noi ci occupiamo di politica. 24, ma io sono già veramente, e lo dico con doppio orgoglio, sì, stamattina veramente davanti all'edicola, tra un attimo, perché queste cose vanno lette, viste, studiate e ricordate. Strappate le pagine di questo magnifere, vediamo di farne un piccolo archivio prima personale. Però compratelo, perché se andate in edicola, strappate le pagine, l'edicolante magari un po' si arrabbia. Grazie a Luca Dini, trovate il numero in edicola di Vantifera, e Paola Saluzzi per essere stati con noi. Alla prossima. 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino, l'Italia si desta. Quando sono le 7:18 minuti in punto, eccoci cari ascoltatori, pronti con la rassegna stampa, pronti a leggere i giornali. E oggi parleremo di che cosa? Parleremo di 40 anni fa, la legge sul divorzio. Parleremo di questa vicenda molto calata nel reale. Perché? Perché si sta parlando sempre di più, o per la verità non è una novità, ma pare che questa volta ci siamo, si spera, non si spera, c'è chi è a favore, c'è chi è contro, il divorzio breve in Italia, cioè ridurre da 3 anni a 1 anno gli anni di separazione per ottenere il divorzio, una cosa che interessa molte famiglie italiane, certamente molti italiani o molte famiglie o ex famiglie italiane. Ne parleremo alle 8:15, avremo l'onorevole Alessandra Moretti del Partito Democratico, che è eurocandidata, ma è anche insieme al collega di Forza Italia D'Alessandro relatrice alla Camera del testo sul divorzio breve. Avremo con noi anche l'avvocato Anna Maria Berrandini De Pace, avremo l'avvocato del Forum dell'Associazione delle Famiglie Simone Pillon per parlare di divorzio e divorzio breve in Italia. Ora i giornali. In questo mercoledì 14 maggio i titoli, l'apertura del Sole 24 Ore dedicata a IRAP più leggera per le piccole e medie imprese, questo è il titolo di prima pagina. Poi le aperture sono diversificate, c'è la questione del presunto complotto anti-Berlusconi nel 2011, USA Unione Europea, duello su Berlusconi, così apre il Corriere della Sera, mentre il giornale è ancora più esplicito, il complotto contro Berlusconi, ora fuori i complici, questo è il titolo di prima pagina del giornale, fuori i complici. Poi la vicenda Expo ancora tiene banco su Repubblica, Expo, così la cupola portava i pizzini ad Arcore e a Maroni, questo è il titolo di prima pagina. Mentre per la stampa, Expo, nuova lite in procura, ci sono altri appalti truccati. Per il Messaggero, tangenti Expo, scontro tra PM, lo scontro che c'è in procura tra il procuratore capo Bruti Liberati e Robledo. A proposito di giudici e di magistratura, Libero per il secondo giorno pubblica questa notizia del giudice, di uno dei giudici che ha condannato Silvio Berlusconi, il giudice Disa, e le frequentazioni con una famiglia di plurinquisiti. Il giudice festeggia con gli indagati, spuntano le foto, le strane relazioni di Disa al magistrato di Cassazione che aveva negato di frequentare Terenzio, eccolo qua in foto con invece i coniugi Terenzio in una visita a Lugano. Renzi, lo Stato più forte dei ladri, e si torna sull'Expo, questo è il titolo di prima pagina dell'Unità, mentre il Manifesto gioca sulla parola Expo, mette la foto di Renzi e Grillo in prima pagina e il titolo è Ex Spot, cioè come dire più uno spot elettorale. PD, panico, Grillo, invece è il titolo del Fatto Quotidiano. Avvenire invece sui migranti morti, in mare si muore, in Europa si litiga. E come vedete ogni quotidiano sceglie un'apertura più o meno diversa. Io voglio partire però dal racconto di un'intervista, rispunta la vicenda, ricordate, degli embrioni fecondati e scambiati poi con i genitori biologici di un embrione fecondato, fecondazione assistita, e l'embrione che è stato impiantato nel grembo di un'altra donna che ora sta portando avanti la gravidanza e i due figli. Torna questa vicenda perché Repubblica in prima pagina intervista, è la prima volta che parlano i genitori biologici, cioè coloro che hanno appunto generato l'embrione fecondato, ma che poi si sono visti sottratti della possibilità di portare avanti la gravidanza per questo grave errore, clamoroso errore che c'è stato in un ospedale di Roma. Fabio Tonacci, l'intervista: i gemelli sono figli nostri, l'altra coppia deve darceli. Questo è il titolo di prima pagina che riapre questa polemica. Dice Paolo, 41 anni, come padre non posso sopportare che la vita dei nostri figli non ancora nati sia già distrutta da un caso giudiziario. E scrive Tonacci di Repubblica, beh, si potrebbe già chiudere qui l'intervista, li chiama così i nostri figli, non i loro figli. Lui, che è già padre di quei due bambini che però stanno crescendo nel grembo di una donna sconosciuta. A parte insomma le premesse, cercate di capirci, tuteliamo la privacy. La moglie dice: non sono passati neanche 20 giorni da quando l'abbiamo scoperto, ci ha telefonato, l'ospedale è crollato, il mondo addosso, non sappiamo nulla e non abbiamo nulla dei nostri bambini, anche lei li chiama così, nostri, soltanto una cosa, le analisi genetiche che ci ha inviato l'ospedale, le guardiamo, le riguardiamo, sono i nostri 4 codici, tutti su una pagina, 4 colonne affiancate, ci sorprendiamo a vedere le somiglianze dei caratteri, ci emozioniamo a pensarle, a immaginarceli, sono loro, siamo noi. Per ora abbiamo solo questo, ma permetteteci di considerarla la nostra prima foto di famiglia. Pensate, la foto del codice genetico. E il marito dice: le nostre vite sono inesorabilmente cambiate, cambieranno ancora. Questa è una storia lunga, tante pagine devono essere scritte. Tra l'altro non so nemmeno di chi stiamo parlando dell'altra coppia. Quasi un mese dal fatto, non ci hanno ancora detto i loro nomi. Non sappiamo chi siano, dove vivono, cosa facciano, non sappiamo niente di loro. Noi li vogliamo incontrare, vogliamo parlarci e provare a risolvere la questione. E qui insomma c'è soprattutto la richiesta molto forte: non crediamo che l'ipotesi della famiglia allargata sia fattibile, ci aspettiamo qualcos'altro, ma di questo parleremo direttamente con l'altra coppia e non è il caso di farlo con un'intervista sul giornale. Ribadisco, è importante vederci. Certo, non c'è questa frase esplicita, li rivolgiamo indietro, ma la sensazione che si evince anche nel titolo è questa: quei bambini sono i nostri figli, l'altra coppia ce li restituisca. È un caso certamente unico e chissà che succederà quando i due bambini nasceranno. Intanto però, cambiando completamente registro, mi ha molto colpito la notizia che c'è su tutti i giornali del fatto della giornata dei musei aperti tutta la notte, giornata europea dei musei aperti tutta notte, ma tutti i giornali titolano: rimarrà chiuso solo il Colosseo, uno dei monumenti più importanti non solo d'Italia ma del mondo. Colosseo chiuso la notte dei musei, non si trovano 5 operai per aprirlo, 5 custodi. Guardate tutti i titoli, è così: la lunga notte dei musei col Colosseo chiuso. 21, pagina 21 del Corriere. Lo scandalo del Colosseo chiuso nella notte dei monumenti, il titolo di Repubblica, pagina 20. E il Messaggero, niente custodi, notte bianca senza Colosseo. A questa notizia è dedicata anche il Buongiorno di Massimo Gramellini sulla Stampa in prima pagina. Scrive Gramellini, qualche buon tempone a caccia di pubblicità, ha pensato bene di aprire al pubblico i principali musei e monumenti europei per una notte, una folle iniziativa che sabato prossimo consentirà ad interi gruppi familiari di avvicinarsi in un contesto anomalo a luoghi altamente pericolosi. Non ha quasi incontrato resistenze, le maestranze costrette agli straordinari l'hanno accolta con rassegnazione, talora con quel sottile piacere che procura l'amore per il proprio lavoro. In un quadro tanto cupo si staglia però la ribellione di uno sparuto manipolo di eroi, custodi del Colosseo. E non si può dire che le autorità non abbiano tentato di blandirli con qualunque mezzo, anche il più spregevole. Qualche sfruttatore è arrivato a mettere in giro la voce che il lavoro notturno sia alquanto diffuso nei mestieri che hanno a che fare col tempo libero. Ma le battaglie di principio vanno combattute senza cedimenti. E così il Colosseo resterà chiuso. I suoi custodi sono anch'essi dei monumenti da conservare, il più giovane ha 58 anni. E stanno in piedi 6 ore al giorno, circondati da torme di giapponesi, un lavoro infame. E bene fanno i sindacati a difenderlo dalle mire degli schiavisti pubblici e privati che, se spugnassero l'anfiteatro Flavio, lo appalterebbero a una cooperativa di giovani gladiatori disposti a lavorare una notte all'anno, perfino di sabato. Peggio, si spremerebbero le meningi per trasformare il monumento più famoso del mondo in una fonte di guadagno che consenta di aumentare gli incassi e, nello scenario più drammatico, addirittura le paghe. Ecco, con questa neanche tanto velata e amara ironia, Massimo Gramellini commenta la notizia del fatto che il Colosseo sarà l'unico museo, forse d'Europa, a rimanere chiuso, non so se d'Europa, ma certamente il più famoso, a rimanere chiuso la notte dei sabato, la notte dei musei europei aperti. Prima della pubblicità non posso non rendervi partecipi del dramma invece che ha colto due, come vengono definite, Papi Girls su alcuni giornali, sul Fatto Quotidiano, sul Quotidiano Nazionale. Si tratta di Patrizia D'Addario e Barbara Montreale, due che partecipavano, Barbara Montreale fa sapere a vario titolo, alle serate con Silvio Berlusconi. Non possono mettervi a parte del fatto che si sono incrociate a Bari, la loro città, una parola, una parolina di troppo, un insulto, ed è finita a graffi, tirate di capelli e aggressioni, ed entrambe al pronto soccorso. Così Patrizia Montreale, intervistata da Antonio Massari sul Fatto Quotidiano. Il titolo è "Rissa per Berlusconi, lui mi ha rovinato. Ho incontrato la D'Addario sotto casa di un amico, non la vedevo da 5 anni, e le ho detto: ti ricordi di me? Sei quella che mi ha rovinato la vita dicendo che sono una escort. Ma non è vero?" chiede il Fatto. "Non è vero, io andai da Berlusconi come ragazza immagine, 10.000 euro, ma solo per quello. Dopo quella frase ho attraversato la strada con mia figlia, ma lei mi ha preso ai capelli, mi urlava: puttana, mi sputava e mi sono difesa, dovevo lasciarmi picchiare?" Beh, insomma, veramente Patrizia D'Addario dice che lei l'ha aggredita. "Ma non è vero, l'ho aggredita solo verbalmente. Lei mi ha preso per i capelli e urlava: hai preso 10.000 euro! Beh, voi immaginatevi, no? A Bari, in pieno centro a Bari, questa scena. E 10.000 euro, Barbara Montreale, quello è più quello che Berlusconi le ha dato o le ha tolto? Quello che mi ha tolto. Ero felice, mi mantenevo da sola, avevo 23 anni. Ora vorrei che lui cancellasse tutto quello che è accaduto. Silvio c'è, dov'è? Rispondesse, almeno dicesse che con lui non ci sono mai stata." Così Barbara Montreale, disperata, anche sul Quotidiano Nazionale. Dalle feste a Palazzo Grazioli al pronto soccorso, botte, graffi tra D'Addario e Montreale. I bei tempi passati. Alessandro Milan, al suo segnale, scatenate l'inferno. Mi sembra giusto, mi sembra giusto, visto che si parlava del Colosseo. Allora, le 7:33 minuti, continuiamo a leggere i giornali e partiamo da che cosa? Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Graziano Del Rio fa un'intervista oggi al Corriere della Sera, parla anche di tasse e di anche ovviamente altre notizie. Intervistato da Marco Galluzzo a pagina 9. Intanto sulla TASI, sapete che sul tema della TASI c'è la possibilità di una proroga, come ieri ci diceva anche Mauro Meazza, era scritto sul Sole. Ebbene, su questo il titolo è: TASI contrario alla proroga, dice Del Rio, ma a decidere sarà il Parlamento. Stanno discutendo di una proroga, decideranno loro. L'opinione del governo è che è una legge vigente, gli italiani hanno bisogno di tutto tranne che cambiare le regole. Però assicura Del Rio una certezza, avendo messo 1 miliardo di euro sul sistema casa, è questa: la TASI si pagherà meno della vecchia IMU. E poi ancora sugli altri temi, per esempio il bonus degli 80 euro, temete blitz in aula, chiede Galluzzo. Le coperture richiedono procedimenti complessi, risponde Del Rio. Tutto quello che si aggiunge è benvenuto, ma deve avvenire a saldi invariati. Non può essere accettato un assalto alla diligenza, se è così crolla il castello. Anche lei, come Renzi, pensa che i tecnici del Senato hanno detto il falso? Hanno fatto osservazioni che non rispondono al vero. La copertura c'è. E dunque risponde sì Del Rio, insomma, hanno sbagliato i tecnici del Senato. E sulla riforma elettorale, ricordo che è in corso la 54esima settimana decisiva della riforma elettorale. A questo punto anche al Corriere viene il sospetto di chiedere: caro Del Rio, per alcuni la riforma elettorale è prossima a un binario morto. Ma Del Rio dice: no, non credo, sarà un altro obiettivo che potremo incassare. Quando non si sa. Le due riforme, quella elettorale del Senato, rappresentano due punti fermi per dare autorevolezza al Paese, così vengono giudicate da qualsiasi osservatore internazionale. E questo Del Rio, ovviamente l'intervista è anche più completa, pagina 9. A proposito di tasse, l'apertura del Sole 24 Ore è questa, la vedremo poi con Mauro Meazza. IRAP più leggera anche per le piccole e medie imprese, benefici più ampi per le industrie, per le piccole e medie imprese, le PMI, questo è il titolo di pagina 3. E negli emendamenti anche il pagamento sui beni d'impresa frazionato in 3 rate entro dicembre. Marco Mobile e Marco Rogari ne scrivono a pagina 3. Ieri invece, e tutti i giornali ovviamente hanno ancora tante pagine su questa vicenda, Renzi ha rilanciato l'Expo. Più che rilanciato, insomma, c'è stato sull'Expo un incrocio, tra l'altro anche dal punto di vista elettorale, con Renzi e Grillo, entrambi a Milano, e entrambi hanno, si potrebbe dire, tirato l'Expo dalla propria parte. Renzi ha detto questa frase che è su tutti i giornali: lo Stato è più forte dei ladri, per dire che bisogna andare avanti con l'esposizione universale che ci sarà tra un anno a Milano, mentre Grillo ha detto: questa è una rapina in corsa, andrebbe chiuso tutto. Devo dire che effettivamente il manifesto fa il titolo di prima pagina più efficace per riassumere questa vicenda. Ex spot. Certo, l'Expo è diventato sulle prime pagine del giornale una notizia importante, ma è stato, come dire, ora al centro anche della campagna elettorale, quindi è chiaro che ognuno fa anche proclami molto enfatici su questa vicenda, e quindi molto molto antitetici. Sulla questione invece della inchiesta in corso, la novità più importante forse la mette Repubblica, che mette questo titolo di prima pagina che accusa direttamente Berlusconi e Maroni. Expo, così la cupola portava i pizzini ad Arcore e a Maroni. Questo è il titolo di prima pagina. L'articolo è di Piero Colaprico ed Emilio Randacio. C'è una busta indirizzata ad Angelo Paris? Dammela, dice Rodighiero al custode. E Cattozzo, parla piano, quei nomi, dilli piano, era su tutti i giornali anche lui. È quella più leggera, portamele tutte, dice Rodighiero. E se Rodighiero si occupa abitualmente dei messaggi per i PM, lo fa anche andando ad Arcore. Ecco, questa è la novità per Repubblica. Una delle persone arrestate mandava, diciamo, un faccendiere a Arcore. In 5 date Gianni Rodighiero, collaboratore del faccendiere Gianstefano Frigerio, arrestato. si trova ad Arcore. Una volta ci vanno anche Rodighiero e Frigerio insieme. Sono effettivamente emersi i seguenti dati. Rodighiero, dicono i detective, era ad Arcole il 22 novembre, il 20 dicembre, il 23 dicembre, il giovedì 6 febbraio 2014 e il giovedì 27 febbraio. Come noto, Paris il 3 febbraio 2014 aveva partecipato a una cena ristretta presso Villa San Martino, evento collegabile a Frigerio. Per quanto riguarda invece la regione, scrive Repubblica, si sa dall'intercettazione delle carte giudiziarie che Frigerio incontra una volta per caso Roberto Maroni, che dice di mandargli messaggi per sollecitare il lavoro delle vie d'acqua, vantandosi subito dopo al telefono: lo vedi che ho scatenato Maroni sulle vie d'acqua? E ancora una volta Rodighiero compare in regione per portare questi pizzini, messo tra virgolette. È lui che il 24 marzo 2014 manda un sms a Frigerio, il nipote prediletto di Gian Stefano Frigerio, per la verità, Gianluigi Frigerio, dicendo: sono giù in regione, e la cella telefonica si attiva due volte nella zona di Palazzo Lombardia. Insomma, si allarga la vicenda, si allarga l'inchiesta. Andavamo ad Arcole ogni lunedì. E il titolo di prima pagina: quei pizzini a Berlusconi e Maroni, anzi il titolo di pagina 2 di Repubblica. Si lamenta in carcere l'ex senatore del PDL Grillo, che è stato tra gli arrestati. Mi trattano bene, ma non si mangia molto, non so se ce la farò, dice all'onorevole Barani, che è andato a trovarlo in carcere. Il resoconto di questa visita lo trovate sul Secolo XIX, pagina 3. Grillo che dice, Grillo, Luigi Grillo: la verità è che sono accusato per avere venduto delle bottiglie di vino, e pensare che un po' di bottiglie sono finite anche ad alcuni giudici. Questa è la frase anche un po' criptica, bisogna dire, che ha affidato l'onorevole Barani l'arrestato Luigi Grillo. Se Berlusconi viene attaccato dalla Repubblica per questa vicenda dell'Expo, invece Berlusconi è ieri lui ad attaccare per un'altra vicenda che viene da oltreoceano, con il libro di memoria dell'ex segretario del Tesoro americano Tim Geithner, che in un libro che sta per essere stampato, appena è stato stampato, ha detto: nel 2011 noi americani fummo avvicinati da alcuni funzionari europei che ci proposero un piano per far cadere il governo italiano. Allora era appunto il premier Berlusconi. Volevano che noi rifiutassimo di sostenere i prestiti del Fondo Monetario all'Italia fin quando non se ne fosse andato Berlusconi. Una richiesta giudicata inaccettabile dal ministro Geithner, come del resto da Obama, che fu informato di questa vicenda, ma per quanto sarebbe stato utile avere una leadership migliore in Europa, non potevamo coinvolgerci in un complotto come quello. Non possiamo, insomma, avere il suo sangue sulle nostre mani, con questa espressione americana, scrive Geithner. Ovviamente Berlusconi dice: eccole qui le prove del complotto. Il titolo di prima pagina del giornale è ancora più esplicito: fuori complici, Washington conferma le pressioni dell'Unione Europea per far cadere l'ex premier. E Berlusconi, che oggi fa un'intervista al Foglio, in prima pagina il titolo è questo: ecco qua, avevo ragione, ci fu colpo di Stato. Avevo detto che nelle mie dimissioni del novembre 2011 c'era un elemento di coazione, che le cose si erano sviluppate, e non per caso, a ridosso del G20 di Cannes, subito precedente la nomina di Monti senatore a vita, eccetera, eccetera. Insomma, Berlusconi torna al passato e dice: ci fu un complotto. Renzi liquida la vicenda così, dicendo: è il 17° complotto dall'inizio dell'anno descritto da Berlusconi ai suoi danni. Mentre Fini, rispunta Gianfranco Fini, pensate, intervistato da Repubblica, da Tommaso Ciriaco a pagina 11, dice: ma quale complotto, il paese non teneva, Silvio era debolissimo. Dunque, insomma, invece che guardare avanti, guardiamo indietro. Ma va bene, per carità, non facciamo commenti politici. Diciamo che, a proposito di complottari, voglio salutare Mauro Meazza del Sole 24 Ore. Mauro, eccoci qua. Buongiorno, buongiorno Alessandro. Che complotto, che complotto. Citazione pericolosissima, sì. Un lancio pericolosissimo. Allora, io, guarda, sai cosa faccio? Invoco il diritto all'oblio. Ah, ecco, tu giusto. Dici, ma che c'è? Giusto, no, c'entra. No, c'entra, perché ieri la Corte di Giustizia UE ha deciso una cosa molto importante sul diritto all'oblio, cioè il diritto a non essere, come dire, non essere rintracciati per notizie che riguardino la propria persona su internet, dicendo che deve provvedere anche un motore di ricerca come Google. La cosa è molto importante, lo spieghiamo ovviamente molto bene, scusa l'immodestia, su Sole 24 Ore. Molto leggo, perché non me ne sono occupato certo. Io. Beh, questa è una scontata. Ho letto che è un avvocato spagnolo che ha vinto questo ricorso contro Google, sì. In questo caso. Sì, un avvocato spagnolo che non aveva piacere che nei motori, cliccando, insomma, digitando il suo nome, uscisse una vicenda che non era per lui onorevole, quindi ha invocato e ottenuto dalla Corte UE questa interpretazione sul diritto all'oblio. E così invoco il diritto all'oblio sui tuoi lanci, insomma, mi accomuni a vicende molto scivolose. Guardiamo avanti, come hai detto tu, unico, c'è il modello unico che si incombe sulla nostra estate, allora oggi. La prima uscita dello speciale del Sole 24 Ore, 16 pagine, specialmente per le persone fisiche, le società di persone. Ma è importante. Domani, caro Alessandro, arriva Gerico. Ah! Se tu non hai niente da metterti, magari. No. Non so, guarda che Gerico è molto importante, perché è il software che fa girare tutti gli studi di settore. Vado a comprarmi qualcosa oggi, adesso non so, cerca di rimediarlo all'ultimo momento, non è che può arrivare Gerico, noi lo accogliamo così, non abbiamo neanche una bottiglia di vino in fresco, insomma. Domani arriva Gerico, comunque vedi un po' su norme e tributi oggi, così cerchi anche di capire i suoi gusti, non so, magari... Sì, esatto, la cravatta, non cravatta, informale... Se vuole che ci presentiamo magari più formali o meno formali. Comunque, poi lì tra le pagine di norme e tributi i nostri amici per Radio Fisco troveranno anche il valore del TFR di aprile. È importante. Insomma, è questo per Radio Fisco. Non bisogna farlo sapere troppo in giro, però. No. Però a chi di dovere sì. A chi di dovere deve sapere che abbiamo il valore del TFR di aprile. Non posso rivelarlo perché è un dato sensibile anche questo, dobbiamo anche qui invocare il diritto all'oblio. E poi naturalmente ci occupiamo ancora di redditometro, ma è chiaro. Con le possibilità anche di difesa dalle lettere. E questo è quanto, guarda, io domani non ci sentiremo, caro Alessandro, quindi mi raccomando, quando però arriva Gerico... Sì, me l'hai detto, adesso vado subito a prendermi qualcosa, non ti preoccupare. Mettiti un po' in ordine, sistema anche lì, rassetta lo studio, fai dare una... Spolveratina, magari. Ti ringrazio. Mauro, è un tuo piacere. Ma magari ci sentiamo venerdì, non lo so, devo ancora pensare. No, ma fai con calma, va bene. Allora, vuoi lanciare per due giorni il traffico? Potrei fare due gridi così, lo faccio doppio, sì. Traffico. Alessandro Milan, il sindaco dell'informazione. Eccoci qua, caro ascoltatore. Allora, oggi Libero per il secondo giorno consecutivo fa un attacco al giudice, un attacco nel senso con delle foto, mette sotto accusa il giudice, uno dei giudici che ha condannato Silvio Berlusconi, si tratta del magistrato Claudio Disa, che ieri il titolo del Libero era "Frequenta una famiglia di plurinquisiti, Terenzio di Frosinone". Oggi, dopo che ieri Claudio Disa ha smentito, diceva "l'ho visti forse una volta", eccetera, le foto, le strane relazioni di Disa, il giudice festeggia con gli indagati. Il magistrato di Cassazione che ha condannato Berlusconi aveva negato ieri di frequentare i Terenzio, accusati di truffa, bancarotta, evasione, contiguità con la mafia. "Li ho visti una sola volta un anno fa", aveva detto, "ma non è vero, ecco qua il 4 maggio immortalato con foto al ospite d'onore alla cerimonia della comunione della nipotina del capo famiglia. Ecco le foto, il racconto di un'amicizia", ci sono le foto di una visita tutti e quattro, cioè i coniugi Disa e i coniugi Terenzio a Lugano, c'è un'intervista a pagina 3 anche al figlio di Disa che dice "noi a Lugano mai", il figlio nega anche l'evidenza delle foto. E questa è la campagna del Libero da un paio di giorni, dicendo come mai il magistrato che ha condannato Berlusconi può frequentare persone plurinquisite e nessuno dice nulla. A proposito di indagini, invece, ci sono ancora sviluppi sulla vicenda Scajola, sulla vicenda dell'Utri. È arrivato il primo sì dalla magistratura libanese all'estradizione, ora aspetterà il governo, quindi una decisione politica a decidere, ma pare che ci sia la volontà di estradarlo, perché è considerato un personaggio scomodo in Libano, Marcello Dell'Utri, mentre sulla vicenda Scajola c'è da registrare Lady Matacena, come viene definita, la moglie di Amedeo Matacena, Chiara Rizzo, che è in carcere a Marsiglia, si lamenta del carcere, scrive Repubblica, è tutto sporco, e la risposta del procuratore generale di Aix-en-Provence, Solange Legras, che dice: mi rendo conto e capisco che questo non è un albergo di lusso del Principato di Monaco, ma lasciarla libera sarebbe per noi un rischio di fronte a un mandato così importante di arresto. Vabbè, veniamo alla cronaca. La cronaca è tanta polemica ancora sulla vicenda migranti. L'Europa all'Italia dica cosa vuole sugli immigrati. Ieri c'è stata questa polemica con, come racconta Felice Cavallaro sul Corriere della Sera, con il portavoce di Cecilia Malmström, il commissario europea, che dice: noi abbiamo chiesto all'Italia cosa vuole, ma l'Italia non ha chiesto nulla e non ha risposto a una lettera di sollecitazione inviata 2 mesi fa dalla stessa Commissione europea, una dichiarazione che non è piaciuta al ministro Alfano, il ministro dell'interno, che dice: se è un problema di scrivere letterine, vado subito a Bruxelles dalla Malmström. Non consentiamo che nessuno giochi a scaricabarile. Sta di fatto che poi ieri in serata è arrivata una telefonata per chiarire tra la Malmström e lo stesso ministro Alfano, però chiaramente la vicenda rimane molto molto tesa. Sempre sulla cronaca registro che il Fatto Quotidiano fa un articolo con Stefano Feltri dedicato alle spese pazze, questo secondo il Fatto, dell'ex amministratore delegato della Sogin Giuseppe Nucci, indagato nell'inchiesta sugli appalti per Expo 2015, Sogin, la gran vita del boiardo Nucci, questo è il titolo, secondo il Fatto Quotidiano, e secondo una commissione di due diligence fatta dal successore di Nucci, si è scoperto che lui, con la carta aziendale, avrebbe speso, tra le altre cose, con la carta della Sogin, un portafoglio Louis Vuitton per 690, no, per alcuni euro, poi 697 euro e 420 euro per 2 trolley marca Piquadro, poi un biliardino non si sa per quale destinazione da 705 euro, poi una borsa Louis Vuitton da 995 euro, poi una pochette Métis della collezione 2013, ah no, è questa, insomma, il prezzo 995 euro, insomma, borse costose, colazioni, un biliardino, ecco l'esposto in procura sulle spese pazze dell'ex amministratore delegato dell'azienda di Stato Sogin. Questo sul Fatto Quotidiano a pagina 5. C'è da dire solo che dal punto di vista politico oggi ci sarà forse il voto dell'Aula per confermare o negare l'arresto del deputato del PD Francantonio Genovese, ma è la notizia, certamente una delle notizie politiche del giorno, perché forse invece si arriverà a uno slittamento. Il caso è abbastanza scomodo in campagna elettorale, come voi capirete. Ma siamo al momento conclusivo, al momento del premio La Carta Costa. Stiamo preparando la coppa che assegneremo al direttore del giornale che vincerà verso fine giugno, poi documenteremo tutto. Ed è il primo premio La Carta Costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Oggi vince Il Giornale, che è in testa. Attento, direttore Sallusti, attento. Oscar Grazioli, una pagina su cosa? Quei vigili del fuoco con coda e baffi. Ecco i gatti salvavita. Grazioli è un medico, è un veterinario e scrive sempre gli animali. A Jesolo un micio sveglia i padroni e li avvisa che l'appartamento va a fuoco. E non è un caso isolato, Grazioli dice: ora li voglio sentire. Chi dice che l'amico più fedele dell'uomo è il cane, dopo che questo micio a Jesolo ha svegliato una coppia dicendo: c'è un incendio, io guarderò oggi il mio gatto Zen, la mia gatta Zen, e dirò: aiutami se va tutto a fuoco, Zen, muovi le vibrisse, ti prego. Andiamo al giornale radio 24 mattino. Eccoci qui, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan, sono le 8:18 minuti. Lei è per l'abolizione? Lei è del fumo, magari. No, dicevo, lei è per l'abolizione del divorzio. Scusi, ma ci sono tante cose brutte da abolire, vogliamo abolire proprio l'unica buona, il divorzio. Lei è da 20 anni un marito e un padre felice. Soprattutto responsabile. Tempi allora, di un'Italia che fu la voce che sentite di uno spot, è Nino Manfredi che parla, il celebre Nino Manfredi, 40 anni fa, 1974, quando l'Italia il 12-13 maggio votava per il referendum abrogativo sul divorzio. Allora gli italiani decisero che la legge sul divorzio di 4 anni prima doveva rimanere come conquista di civiltà. Ora questo principio non è più molto messo in discussione, viene accettato, se è vero tra l'altro, come certifica l'Istat, che ormai il matrimonio come lo conoscevamo un tempo non c'era più, non c'è più. Pensate, tra il 95 e il 2009 i matrimoni in Italia sono scesi da 290 a 230.000 all'anno e nello stesso periodo, quindi 95 e 2009, sono raddoppiati i divorzi, da 17.000 a 54.000 divorzi l'anno. Quindi se nessuno mette più in dubbio che la conquista del divorzio sia stata una conquista di progresso per l'Italia, ciò che invece è al centro delle critiche ora sono i tempi del divorzio, tanto che rispunta, per la verità non è la prima volta, ma ogni tanto ritorna fuori la possibilità di avere una legge sul cosiddetto divorzio breve. Il divorzio breve, e cioè in questo caso c'è un nuovo disegno di legge che prevede una riduzione da 3 anni a 1 anno del tempo dalla richiesta di separazione alla possibilità di divorzio, e addirittura nelle separazioni consensuali in assenza di figli minori questo termine può scendere addirittura a 9 mesi. È secondo voi una battaglia giusta e di civiltà? Lo chiedo anche agli ascoltatori. 800 24 00 24. Per esempio la CEI, cioè i Vescovi, con Don Paolo Gentili si sono espressi gli scorsi giorni molto negativamente, dicendo: vorremmo dal governo leggi a favore della famiglia e non contro le famiglie. Intanto ne vogliamo parlare con chi porta avanti all'interno del Partito Democratico, ma un progetto di legge bipartisan, c'è anche Forza Italia. Alessandra Moretti del Partito Democratico, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno a voi, lei, grazie. Lei è capolista del Nord-Est, tra l'altro, per le europarlamentari, ma porta avanti questa legge con Luca D'Alessandro di Forza Italia. Questo a significare che è una legge appunto bipartisan. Che ne pensa intanto della posizione dell'esponente della CEI, onorevole Moretti? Ma intanto io rispetto tutte le sensibilità, tra l'altro quella espressa, diciamo, anche dalla Chiesa Cattolica è una sensibilità con la quale ci siamo confrontati in questi mesi nella discussione appunto su questa proposta di legge. C'è da dire invece che io ritengo che la ratio che è sottesa a questo provvedimento mira proprio ad esprimere un valore, un concetto, e cioè che noi dobbiamo difendere la cultura della famiglia e soprattutto la cultura della genitorialità, e quindi la responsabilità del genitoriale, indipendentemente dalla fine del matrimonio, dalla fine dell'amore tra due persone. E quindi dobbiamo favorire il lasciarsi consapevole del fatto che se ci sono figli soprattutto non viene meno il valore della famiglia e il diritto dei figli ad avere appunto due genitori che dialogano, si confrontano e contribuiscono alla crescita armonica. Questo certamente. Verrebbe da dire perché ogni tanto rispunta questa proposta e perché bisogna pensare che questa volta invece possa fare dei progressi, per chi ovviamente è favorevole in Parlamento. Guardi, noi dobbiamo prendere atto che questo è effettivamente il Parlamento non solo più giovane della storia della Repubblica, ma anche più rosa, cioè c'è una componente femminile importante. Poi c'è anche un tempo per tutto, probabilmente oggi è arrivato il momento per ridurre la tempistica, e vedo, riscontro, che da parte di tutte le forze politiche, anche devo dire da quelle più distanti da questa idea, c'è invece una consapevolezza del fatto che questo provvedimento non soltanto aiuta le famiglie, ma soprattutto avrà un effetto deflattivo sul carico giudiziario e anche ridurrà i costi per le separazioni e divorzi, perché sa, se un procedimento anziché 3, 4, 5, è chiaro, 6 dura anni meno. Infatti questo è un primo punto. Intanto mi lasci salutare Simone Pillon, che è avvocato matrimonialista del Forum dell'Associazione delle Famiglie. Buongiorno avvocato Pillon. Buongiorno a tutti. Intanto le chiedo che tipo di opposizione e critica si può fare dalla possibilità di far scendere da 3 anni a 1 anno, che comunque è un tempo nel quale, insomma, durante la separazione la coppia può meditare, può confrontarsi, può capire se si sta facendo la scelta giusta. Ecco, perché da 3 anni a 1 anno è un problema? Veda, noi partiamo da un presupposto che è diverso, e cioè noi siamo convinti che il divorzio sia l'extrema ratio, cioè diciamo un qualche cosa che non si augura a nessuno, ma che ormai nell'ordinamento italiano è da 40 anni che si è radicato. Dobbiamo però chiederci se sia qualche cosa appunto da augurare alle coppie, oppure qualche cosa che le coppie sposate hanno il diritto di tentare di evitare. Io sono convinto che al giorno del matrimonio nessuno si metta accanto agli sposi augurando loro buon divorzio, in ogni legame matrimoniale è inscritto almeno il desiderio che ci sia un per sempre. Poi, però questo avvocato, cioè, della vita è chiaro, si scontrano contro alcune realtà che sono alle volte oggettive e ineliminabili. Allora, noi non è che dobbiamo fare la rincorsa a quanti anni servono per il divorzio, perché questo tipo di ragionamento francamente ci trova asettici. Il problema è un altro, e cioè il nostro ordinamento ha voluto riconoscere tra la separazione e il divorzio un tempo, evidentemente per un obiettivo, e cioè quello di tentare ancora una volta di salvaguardare questo tempo. C'è ancora, semplicemente questo tempo c'è ancora, viene ridotto, non entriamo nella questione se il tempo sia di 3 anni, di 2 anni, di 1 anno. Noi vogliamo invece offrire una proposta alternativa, e cioè riempire di contenuti questo tempo, offrire cioè alle famiglie, alle coppie in crisi, una alternativa, perché oggi, veda, la coppia in crisi è lasciata sola a se stessa, non c'è nessuno che si prenda cura della crisi, è vissuta. Però mi scusi avvocato, le chiedo questo, è come se fosse una cosa privata, invece noi dobbiamo offrire un'alternativa. Avvocato, le chiedo, perché secondo lei uno Stato dovrebbe uno a parte che è libero di poter andare da psicologi, certo, mi faccia fare la domanda. Uno può essere libero di scegliere di andare da psicologi, terapeuti che possono aiutare in un percorso di coppia, cercare di capire, oppure è libero di non poterlo fare. Secondo lei uno Stato dovrebbe invece in qualche modo anche legiferare su questo, cioè salvaguardare a tutti i costi? Veda, io ho detto un'altra cosa, cioè se c'è un tempo è perché evidentemente si vuole riconoscere al matrimonio un valore sociale, cioè il fatto che una coppia stia insieme ha un valore sociale, ha un contenuto di grande coesione sociale. Allora lo Stato mette a disposizione di questa coppia che va in crisi oggi semplicemente uno spazio di tempo completamente vuoto. Noi contestiamo questo e diciamo deve essere offerta alla coppia la possibilità del supporto, la possibilità della conciliazione seria, reale, la possibilità di una mediazione. Ma come? Cioè, lo Stato lo deve fare? Cioè, non dovrebbe essere una libera scelta se poter fare la conciliazione? Deve essere una libera scelta, ma oggi lo Stato non mette a disposizione nulla. Vediamo, non so. Posso scegliere tra il nulla e il nulla. Chiediamo, onorevole, no, ma è chiara la sua obiezione, onorevole Moretti, e questa legge diciamo abbassa brutalmente i tempi, ma tiene, dice l'avvocato Pillon, nell'incertezza, in questo tempo le famiglie lasciate a se stesse, non si dà un'alternativa per cercare di aiutarle a capire se davvero stanno facendo la scelta giusta. Ma ritengo che insomma queste argomentazioni non siano attinenti specificamente alla finalità che con questa legge noi intendiamo portare avanti, e mi spiego. Noi intendiamo dire che la riduzione dei tempi riduce proprio il conflitto tra i coniugi, cioè ridurre il tempo smina la cultura del contenzioso, che è una cultura negativa, soprattutto quando si sviluppa all'interno di una famiglia, che, ripeto, deve resistere anche quando l'amore tra i coniugi finisce. Allora, evitare che i coniugi, nel sentire questo tempo così lungo, radicalizzino il conflitto a discapito soprattutto dei figli, ma accompagnare la coppia e quindi aiutare la coppia a lasciarsi in maniera consapevole e civile, soprattutto a beneficio dei figli quando questi ci sono, trovando ad esempio anche dei momenti di condivisione delle scelte, perché vede, caratterizzare una riduzione diciamo ulteriore quando la coppia sceglie di addivenire ad una separazione consensuale, quindi favorendo delle condizioni condivise, prese insieme, io credo che questo sia ancora di più un modo per difendere la famiglia per il futuro, perché vede, quando una coppia decide di lasciarsi, e l'avvocato probabilmente lo saprà perché ci sono indagini statistiche molto, molto, anche molto recenti, ma difficilmente ci sono riconciliazioni in quei 3 anni, anzi le dirò di più, ci sono milioni di famiglie in Italia di separati, famiglie di fatto, di persone che convivono in attesa di ottenere il divorzio proprio per risposarsi e quindi rifarsi una famiglia legittima. Quindi vede, smontiamo tutte le accuse che vengono rivolte, perché questo semmai è un provvedimento che favorisce la nascita di nuove famiglie, cioè aiuta alle coppie che non vogliono più stare insieme a lasciarsi, ma aiuta anche quelle coppie che si vogliono rifare una famiglia. Deve stare a capire se questo è il modello, forse avvocato, lei contesta più che altro il modello etico, scusi se introduco questa parola, che potrebbe introdurre questa legge piuttosto che il modello. Guardi, non è un problema etico, qui è un problema antropologico. Intanto contesto il dato che riporta l'onorevole Moretti, in quanto è vero che molto raramente si addiviene a una riconciliazione nel periodo tra separazione e divorzio, ma solo se la coppia è lasciata priva di sostegno. Ci sono esperienze pilota in Italia, una delle quali io conosco molto bene qua a Perugia, che si chiama Casa della Tenerezza, attraverso le quali coppie anche laiche, anche lontane dalla fede e dalla Chiesa, vengono sostenute e nel 60% dei casi si ha riconciliazione. Quindi il problema non è che non si hanno riconciliazioni, il problema è che non si promuove la riconciliazione. Vabbè, ma lei vuole tenere, mi sembra l'idea che vuole tenere, diciamo, unite per forza, cercare di tenere. No, per forza no, guardi, per forza no, perché io mi appoggio semplicemente a una parola che si sono dati quei due il giorno delle nozze. Vabbè, e ma loro, questa sulla loro parola. Sì, però questa, certo, ma questo certamente, però avvocato Pillon, le cose nella vita poi possono anche cambiare, lei dice nessuno augura il divorzio. Si separeranno e divorzieranno, nessuno impone loro di imporre no. È una legge dello Stato. Certo, questo però sì. Offrire un'alternativa, questo sì. Questo, ma si può fare, ma chiaramente nessuno augura il divorzio alle persone che si stanno sposando, come nessuno augura che una persona possa avere cattiva salute, ma può succedere, voglio dire, poi un conto è quello che uno dice nel momento e ci crede, e poi le cose possono cambiare. Ma comunque è interessante la discussione. 800 24 00 24, andiamo un attimo in pubblicità, riprendiamo tra un attimo. L'onorevole Moretti, Simone Pillon, ci raggiungerà anche l'avvocato Anna Maria Bernardini De Pace, e le vostre chiamate ovviamente tra pochissimo. 24 mattino. Eccoci, sono le 8:36 minuti. Allora, con noi c'è l'onorevole Alessandra Moretti del PD, che insieme al collega di Forza Italia, Luca D'Alessandro, è relatrice del testo base, è quello che tra l'altro ha ottenuto il sì dalla commissione, e sì unanime, il testo che vuole ridurre da 3 anni a 1 anno i tempi della separazione alla possibilità di divorziare, addirittura si scende a 9 mesi in caso di separazioni consensuali e in assenza di figli minori. Insieme all'onorevole Moretti, con l'avvocato Simone Pillon, avvocato del Forum dell'Associazione delle Famiglie, saluto anche l'avvocato Anna Maria Bernardini De Pace, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti. Avvocata e scrittrice, insomma c'è un dibattito, nel senso che l'avvocato Pillon dice non è un problema di ridurre i tempi, ma che cosa si fa in questo tempo, in questo 3 anni, 1 anno, 2 anni, cioè lo Stato dovrebbe garantire una maggiore assistenza alle coppie che magari vogliono recedere da questa decisione che hanno preso decidendo di separarsi. Vorrei sapere da lei allora che ne pensa della proposta che addirittura si era profilata dal ministro della giustizia Orlando, di dire facciamo come in Francia, addirittura separazioni laddove c'è il consenso alla francese, senza neanche passare al giudice, si mettono d'accordo gli avvocati e via. Che dice lei? ingegnere nato sul campo mi dice prima di tutto che quella che in genere si chiama l'assistenza dello Stato è drammatica. I servizi sociali non sono così risolutivi nel fare le cose, anzi proprio quando il giudice chiama in aiuto i servizi sociali per indagini o altro i tempi si allungano infinitamente. Ci manca solo di inserirsi in un perverso percorso dell'assistenza statale per allungare, secondo me, i tempi. Invece il mio pensiero laico mi obbliga a ritenere che sia giusto fare come in Francia. Io sono oltre questo pur ammirevole programma che si sta facendo, approvato dalla Commissione, per cui si riducono i tempi della separazione, però in ogni caso si creano due duplicazioni, si crea una duplicazione, ci sono due procedimenti, due volte bisogna andare dall'avvocato, due volte si riapre il conflitto. E lei come farebbe? Come farebbe subito così? Senza Io farei esattamente come in Francia, cioè la possibilità di fare la separazione per chi vuole avere i tempi del ripensamento, chi non vuole divorziare, per esempio tutti i cattolici che sanno, ritengono che il matrimonio sia un sacramento, per cui non vogliono recidere il vincolo coniugale. Ma questo in caso ovviamente di consenso di entrambi, cioè perché se uno dei due dice no, io voglio, che ne so, pensarci un anno, voglio pensarci due anni, voglio pensarci tre anni. Certo, ma su questo si può aprire un fronte di discussione, però chi vuole divorziare subito, pensiamo a tutti quei giovani che si sposano e si separano dopo due o tre anni. Sì. Allora la possibilità di rifarsi una vita, adesso non c'è più il problema dei figli, fortunatamente, grazie alla legge lodevolissima che è stata fatta di parificazione dei figli legittimi e dei figli naturali, ma una volta c'era anche il bisogno da parte di queste coppie di legittimare i propri figli con un successivo matrimonio, il successivo matrimonio non si poteva fare. No, ma è chiaro, io su questo, allora, io vorrei, l'onorevole, dare la parola all'onorevole Moretti perché tra qualche minuto ci deve lasciare, onorevole Moretti, mi arriva un messaggio, un ascoltatore, poi adesso ne sentiremo qualcuno. Sei pro divorzio, caro Milan, e per la disgregazione della famiglia. L'avvocato Pillon, che è qui, mi ha zittito per bene. Va bene. Io e lei, si sente anche lei, onorevole Moretti, contro la famiglia? Non so, come portatrice. Ma allora, di valori, guardi, disgregativi. Essere contro la famiglia, per esempio, significa non offrire servizi adeguati alla crescita, all'educazione dei bambini, significa non favorire la scuola, gli asili nido, le scuole dell'infanzia, cioè voglio dire, no, se dobbiamo aprire l'argomento come viene tutelata la famiglia in Italia, beh, non dobbiamo certamente guardare a questo provvedimento. Questo provvedimento mira semplicemente a sminare la cultura del contenzioso e mira a ridurre i tempi, riducendo quindi il conflitto tra coniugi a beneficio dei figli. Io sono d'accordo con la collega Bernardini quando dice che addirittura no, bisognerebbe pensare ad un sistema simile a quello francese. Infatti il ministro Orlando sta proprio predisponendo un disegno di legge su questo punto. Ma lei è favorevole? Sarebbe... Certo che sì, certo che sì, sono due disegni di legge assolutamente complementari, cioè da un lato io addirittura salto il passaggio davanti al giudice quando due coniugi sono perfettamente d'accordo e in assenza di figli. Invece il nostro disegno di legge mira semplicemente a ridurre i tempi, è un disegno di legge molto semplice che semplifica la vita di chi vuole separarsi e che addirittura favorisce, secondo me, la cultura della famiglia che deve sopravvivere anche quando una coppia decide di non stare più insieme, e questo lo dobbiamo soprattutto per tutelare i figli che hanno diritto comunque alla bigenitorialità, che hanno diritto a due genitori che continuano a confrontarsi, a parlarsi civilmente per quanto riguarda gli aspetti educativi e anche relazionali, cioè voglio dire, no, la famiglia non è soltanto oggi quella legittima, ci sono tante famiglie, ci sono tante forme di famiglia. di famiglia. E quindi io credo che debba essere dato atto che c'è questa volontà trasversale, che ci stiamo arrivando dopo 40 anni, che evidentemente il dibattito parlamentare anche degli anni successivi, degli anni precedenti, scusate, ha avuto buoni effetti e che oggi probabilmente a fine maggio l'Aula approverà. Ma questo staremo a vedere. Intanto io, onorevole Moretti, la ringrazio per essere stata con noi e voglio continuare con Simone Pillona, Maria Bernardini De Pace e con gli ascoltatori. Vorrei sentire già un paio. Norberto da Pisa ci chiama. Norberto, buongiorno. Dica. Buongiorno. Io trovo questa discussione interessante ma abbastanza oziosa sul tempo fra la separazione e il divorzio, perché se due sposi insomma decidono, sì, anche se formalmente, di fare una separazione consensuale, ma si uccidono preventivamente, passano anni prima di riuscire ad andare alla prima sentenza. Se la decisione su alimenti, divisione della casa, eccetera, esistessero dei parametri condivisibili e non fosse lasciata sempre alla bravura, all'abilità degli avvocati o all'umore del giudice la decisione, questo semplificherebbe molto, creando, senza creare false aspettative in chi ha dei diritti o li vuole vantare eccessivamente o in chi non vuole rispondere ai propri doveri. In realtà si passano anni a discutere fra avvocati e cose, volendo andare poi a una consensuale. Se io sapessi che in base al mio reddito di sicuro devo dare una forbice, quegli alimenti, da uomo, dovessi dare quella casa, con delle regole più o meno certe. Cioè lei dice, se sapessi tutto potrei farmi i miei calcoli, cioè metto lì... Faccio i miei calcoli, in un mese è finito, non è che in un mese è finita di tre anni. Ma vedi, la giro all'avvocato Pillon, è un'argomentazione quella di Norberto di Pisa, troppo pragmatica, troppo, come dire, che lei... ripudia. Cioè Norberto dice, se io sapessi il mio reddito è tot, so che mi viene a costare tot, ho deciso un mese, via, finito. Avvocato Pillon. Il problema è che l'ascoltatore solleva è assolutamente legittimo e la questione è ancora più seria quando si parla di genitorialità. Cioè, se ci fossero davvero dei parametri condivisi sulla bigenitorialità, su un assegno sostenibile, su un equo contributo da parte di entrambi, questo sì abbatterebbe la conflittualità, non accorciare i tempi di separazione e divorzio che, appunto, come è stato detto, non spostano il problema, perché se i coniugi decidono di farsi la guerra vanno avanti 10 anni lo stesso. Sì. Il problema però, ricollegandomi anche a quello che diceva prima l'onorevole Moretti, è che è una concezione sbagliata di famiglia, cioè il concetto di famiglia è solo il legame tra madre e figli, secondo la concezione dell'onorevole Moretti, mentre noi sosteniamo che famiglia sia, come prevede l'articolo 29 della Costituzione, fondata non su un legame genitoriale ma su un legame coniugale. È questo. Ma non è un concetto sbagliato giusto, sono opinioni, sa, c'è chi pensa che la famiglia sia Costituzione, articolo 29 dice d'accordo, questo. D'accordo, però poi questa è la carta. Discutere se cambia la Costituzione. Concetto di famiglia, come ben sai, è un concetto molto molto allargato. C'è chi pensa anche che una coppia omosessuale siano una famiglia, capisci, avvocato? Si può pensare tutto, però c'è un concetto scritto sulla carta, ma poi c'è un concetto che si elabora in una società. No, ma quello che è un bene poi per i figli è un'altra cosa rispetto a quello che uno può pensare, è universalmente riconosciuto che per i figli l'importante è avere una relazione stabile con entrambi i genitori e il modo migliore per averla è che i genitori restino sposati. Beh, questo è un dato di fatto. Avvocato Bernardini De Pace, su questa lei, insomma, che ne pensa di questa? Sono molto imbarazzata. Dobbiamo tornare a prima del 1970, cioè dobbiamo abolire il divorzio. Non è così. Se vogliamo incrementare i legami familiari, dobbiamo invece onorare e osservare la cultura dei sentimenti, della famiglia, di un certo modo di essere, eccetera, che lo Stato potrebbe benissimo incentivare, non so, per esempio con la televisione che ha un dovere informativo e quindi facendo dei corsi per coniugi, dei corsi per genitori, ma non si può nel 2014 dire che la famiglia è quando quando i genitori, quando i coniugi stanno sì. insieme. Cioè che il bene dei figli è quando i coniugi stanno insieme nella famiglia. Il bene dei figli è che siano amati. Così, ma la famiglia non dobbiamo dimenticare, come giustamente osservava lei prima, che ormai da molti punti di vista è un puzzle fatto ancora da ricostruire bene, perché i tempi evolvono, la società cambia, è giusto che ci sia che si ritenga famiglia sì. nel senso più affettivo e anche anagrafico del termine una coppia omosessuale. Ma questo poi ci sono pareri, io non è che davo un giudizio positivo o negativo, dicevo che il concetto è evoluto. Però andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi sono nuovamente da voi. Allora, fatemi sentire Emanuele, ci chiama da Roma. Buongiorno Emanuele. Buongiorno dottor Milan, ringrazio per avermi richiamato. Volevo portare una mia piccola testimonianza personale, che il tema mi riguarda. Io sono stato assieme alla mia ex moglie in un centro dove ci volevano riconciliare, ci sono poi anche riusciti, sì. c'era la consulenza dello psicologo, dell'avvocato e così via. Siamo tornati insieme, però la delusione è stata che dopo praticamente 2 mesi abbiamo ricevuto l'ingiunzione di pagamento da parte dell'avvocato della sua prestazione, perché lui aveva comunque compilato... Vabbè, insomma, diciamo, a parte questa vicissitudine economica, lei ci sta dicendo che a lei è servito il momento di riconciliazione per ritornare sui vostri passi, dunque? Il momento di riflessione è importante, la cosa che però poi alla fine io reputo sia più importante la formazione prematrimoniale. Sì. Che anche da cattolico io ho vissuto solo in una settimana, così velocemente. Un corso forse prematrimoniale e via. Sì, sì, bisogna fare dei corsi più approfonditi, non così brevi, perché il passo deve essere prima preventivamente diciamo preparato. Ponderato bene, ma questo è chiaro. La ringrazio Emanuele, vorrei andare a Bologna da Massimo. Buongiorno Massimo. Buongiorno dottor Milan. Io volevo mettere sul tavolo dei suoi ospiti un punto di vista. Avete idea di quante coppie sono separate oggi anche da molto più di 3 anni e non perfezionano il divorzio semplicemente perché questo comporta dei costi comunque importanti, oggi per molte famiglie difficilmente sostenibili. In realtà io credo che sarebbe già un gran gesto di civiltà abbassare i costi. Trascorso un tempo di 3 anni ratificare gli atti eventualmente di una separazione consensuale anche in presenza di figli. Cioè, se la coppia si è separata e come si dimostra? Dice, certo, si dimostra, sai, si va da un avvocato e si dice siamo separati da 3 anni e a quel punto semplicemente si ratificano quegli atti senza bisogno magari anche di passare dall'avvocato, visto che l'avvocato è quello che ci si mette a sedere lì davanti diciamo chiede parcella. C'è la parcella. Vabbè, insomma, anche dopo 3 anni la cancelleria del tribunale trascrive la separazione in divorzio. Sentiamo, per esempio, avvocato Bernardino De Pace, lei che ne pensa? Dal momento della separazione, dopo 3 anni, se non vengono chiamati coniugi, ci sono novità? No, va bene, automatico il divorzio. Allora, come dicevo prima, la famiglia dovrebbe essere un'isola appena lambita dal diritto, però quando, come diceva Iemolo, però quando si vive la famiglia soprattutto in fase di separazione, addirittura la legge prevede che in ogni momento si possa andare in tribunale quando la situazione modifica gli equilibri economici o personali dei coniugi in fase di separazione e dopo il divorzio. Di fronte a questo, com'è possibile ignorare 3 anni o 1 anno? Questo forse si potrebbe in teoria fare una volta che uscirà questa legge che prevede che passino solo 9 mesi sì. dalla separazione. Senza o figli, un anno. Poi bisogna tenere presente che tra tutte le cose dette oggi ho apprezzato molto l'idea di quel signore che ha detto ci dovrebbero essere dei parametri fissi. È vero, lui ha perfettamente ragione, come succede per esempio in Svizzera e in Germania, ci sono delle tabelle applicabili al reddito e qualche giudice in Italia ha cercato di farlo, abbiamo avuto a suo tempo al Tribunale di Monza Calabro o al Tribunale di Palermo che hanno dato dei punti di riferimento, cioè se c'è un figlio il 20% del reddito, se ci sono due figli, tre figli, se si dà la casa, non si dà la casa. Questo sì ridurrebbe la conflittualità, così come si ridurrebbe la conflittualità e il costo degli avvocati nelle varie procedure successive se si facessero i patti prematrimoniali. Ah, questo è un altro punto sul quale lei punta molto. Però avvocato Pillon, le chiedo questo, insomma, lei giustamente dice è vero che il meglio per i figli è che i due genitori li amino, e forse il meglio del meglio ancora che i due genitori amino i figli e si amino anche contemporaneamente, voglio dire, avvocato Pillon, però la Mulino Bianco ci ha fatto una campagna pubblicitaria per anni su questa, però non è il mondo, non è sempre così. Allora la sensazione di alcuni messaggi, alcuni la sostengono molto, altri la criticano molto, dei nostri ascoltatori, vedo gli sms che dicono ma insomma si vuole, come dire, tenere unito per forza, cercare di fare tutto per anche di fronte magari a situazioni per tenere unite due persone che se non vogliono, non vogliono, avvocato. Ma difatti non è in discussione la volontà di queste persone. Però noi dobbiamo scegliere una concezione. Sì, ma a volte mi scusi, ma anche ostacolare se mettendo del tempo, può sembrare una forzatura questo. Le persone oggi sono molto consapevoli e libere nella scelta che vanno a fare, possono scegliere di convivere, possono scegliere molte forme di legame affettivo. Il matrimonio ha una sua peculiarità, almeno in Italia, e cioè è un legame pubblico, non è un legame privato. Tra l'altro, paradossalmente, se fosse un legame privato sarebbe davvero indissolubile, perché sfido chiunque a risolvere un contratto di acquisto di un immobile dopo 10 anni, magari, no? Ci ho ripensato, non voglio più la tua casa, te la restituisco, ridammi i soldi, no? Quindi se fosse un legame privato sarebbe assolutamente inscindibile, mentre essendo un legame pubblico deve sopportare un controllo da parte della mano pubblica, sì, che è un aiuto durante la vita del matrimonio. Un sostegno noi auspichiamo durante la crisi del matrimonio e una verifica durante la fine del matrimonio, proprio per tutelare gli interessi dei più deboli, cioè dell'eventuale coniuge più debole economicamente, la moglie molto spesso, la donna, sì, e dei figli. Questa è la natura del matrimonio. Per rispondere all'avvocato De Pace che mi dice che vengo dagli anni 70, a parte che è vero, perché devo chiudere. Però in 10 secondi noi stiamo parlando di politiche del futuro, perché i paesi più avanzati come la Svezia e gli Stati Uniti si sono resi conto che continuando a sostenere il divorzio e rendendo light il legame familiare si sta disgregando la società e hanno introdotto il matrimonio di alleanza indissolubile. Allora si fermi lì, però per questo non ho tempo di approfondirlo come i patti prematrimoniali, ma lo faremo la prossima volta. Vi ringrazio e ci ritroviamo domattina alle 6:30.